Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione, mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino. Il calcio è l'unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. È a Pierpaolo Pasolini che abbiamo affidato l'incipit della nostra storia di oggi. Lo scrittore e regista romano paragona il calcio al teatro e, come noto, una rappresentazione teatrale necessita sempre di un degno palcoscenico e di una appassionata platea. Nel gioco del pallone, uno stadio ne è il perfetto surrogato. Brescia, Barcellona e Roma in apparenza nulla parrebbero avere in comune tranne la loro antica fondazione latina. Tre città lontane tra loro per geografia e cultura, ma in qualche modo legate all'indissolubile collante della passione calcistica, della vera amicizia e attraverso tortuosi giri del destino. Quando agli inizi del nuovo millennio un romano e un catalano si incontrano in terra di Lombardia, luogo per entrambi diverso e lontano da quello di nascita, una scintilla scocca in attesa ad accendere il fuoco di un'amicizia senza fine. Prima di raccontare di questo incontro è necessario spostarci ancora più in là nel tempo e geograficamente più a sud. Ci attende la Roma popolare di fine anni 40, ancora segnata dalla guerra e magistralmente raccontata da Federico Fellini. A me la porzione scarsa perché stanotte sono stata tanto disturbata con lo stomaco. Oggi ci si è messa mamma in cucina, ha fatto lei la pagliata, diretta a me, prenda la pagliata. Cos'è la pagliata? È un pezzo di budellino di vacca pieno di latte. Remo me la comando, se vi per il signorino. Magnate, magnate, queste non sono maghe, sono piccioni. Cicetto, ste banane. La porta a casa, signora, sono finiti. Me ne è rimasta una sola. Vabbè, mi porti qui. E che sono matto? Roma, anni 40. Per un gruppetto di pischelli in braghe corte, piazza Santa Maria in Trastevere è un campo da calcio immaginario, senza linee bianche, senza porte di legno, tribune e curve zeppe di tifosi. Solo turisti, scocciati da quel vociare e da quella pallaccia che talvolta finisce tra i loro piedi, incespicandone il passo. La porta di un bar è l'idealizzazione di una porta nella quale fare gol. E quando questo avviene, capita che talvolta la vetrina del negozio vada in frantumi. Occorre scappare allora, al riparo dell'ira del negoziante, tra i vicoli contorti di Trastevere, ma immaginando di farlo dentro lo stadio olimpico, tra i tifosi impazziti di gioia e le bandiere giallorosse a sventolare frenetiche, mentre si urla come dei pazzi. Rete, rete, rete! Siamo romani, trasteverini, siamo signori senza quadrini, il cuore nostro è una cabanna, cuore sincero, che non t'inganna, se sei in bolletta, noi t'aiutiamo, però da amici non c'è, passiamo. Noi siamo magnatori dei spaghetti, delle Trasteverine, li bulletti. I ragazzini di piazza Santa Maria in Trastevere hanno fatto un gol e invece che sotto la tribuna Montemario sono corsi via urlando, chi dentro l'androne di un palazzo, chi nel sagrato di una chiesa. Tra poco torneranno sui loro passi alla ricerca di un altro spiazzo per continuare a giocare e sognare fino a tarda sera. Tra loro c'è Carlo, detto Carletto, figlio primogenito di Edmondo, un meccanico, unico maschio coccolato dalla madre e dalle tre amatissime sorelle, Anna e le gemelle Laura e Maria. Anche se lui da sempre ha la certezza di avere anche un fratello gemello. Drammatizzare, dico sempre che io ho un fratello gemello che arriva a mezzogiorno della domenica e prende il posto mio. Mi dice, tu giovanotto, adesso hai fatto quello che dovevi fare durante la settimana, adesso in panchina ce vado io, perché io ho un altro carattere, un altro spirito, un'altra carica. E io gli lascio il posto e lui, ogni tanto mi fa casini questi però. E uno grosso me l'ha fatto andando sotto la curva. E io gli ho detto, dopo la partita, ma chi ti ha detto di andare sotto la curva? La risposta di questo fratello gemello che c'è ma non esiste, è stata quella di dirmi non ce la facevo più. La voce che abbiamo ascoltato, roca, appassionata, è dal marcato accento romanesco, è nota in tutto l'ambiente sportivo e calcistico italiano. Ed è anche quella del nostro primo protagonista, Carlo Mazzone. Carlo Mazzone. Roma, Roma, Roma. Cuore di sta città. Unico grande amore. Tanta e tanta gente che fai sospirare. Un uomo che nel calcio veramente è fuori luogo, perché con l'aplomb, col sorriso, con uno sguardo ti fa capire di che pasta è fatto e di che cultura soprattutto. Sto parlando di Carlo Mazzone, è stato allenatore del Brescia. Carlo Mazzone, un uomo che in campo cura prima di tutto l'eleganza. In quelle tute, che a volte sono anche tute di altre squadre, ma che gli frega lui? Sono comode! Ecco, pensate, un romano, come Carlo Mazzone appunto, romano, romanista trasteverino de Roma, che fino a 3 anni fa allenava il Brescia. Adesso uno dice, beh, un allenatore va dove lo chiamano, un allenatore uno zingaro, va da tutte le parti, anche all'estero, dove lo chiamano va. E quindi Mazzone, romano, romanista, trasteverino di Roma, è venuto anche qui a Brescia, oltre a tutta l'Italia, ne ha fatte di panchine. Carlo Mazzone ne ha fatte di panchine, ha ricordato Teo Teocoli, comico milanese e grande appassionato di pallone. Ma prima che un maestro di campioni, il Sor Carletto, così come amano chiamarlo i suoi tifosi, è stato un calciatore professionista con più di 200 presenze tra Serie A e Serie B. Un roccioso mediano di 1,90 m dal carattere indomito, che si mette al servizio della Roma Calcio fin dalle giovanili e con la quale fa il suo esordio nella massima serie il 31 maggio del 1959. Più di 30 anni dopo chiuderà il cerchio prendendo la guida della Roma sotto la presidenza di Franco Sensi, uno dei presidenti più amati dai romanisti e dallo stesso Carlo, che lo ricorda con queste parole. Voi sapete quanto ero legato a quest'uomo, gli devo dare gratitudine perché mi ha fatto diventare allenatore da Roma. Al primo anno non vincevamo mai, ho detto ma mi caccia, non mi ha cacciato, ma vi rendete conto? A testa. Perciò ho dei ricordi sul piano umano eccezionali e poi sono rimasto sempre legato alla sua famiglia, sempre a Natale, a Pasqua, quando si è vinti gli scudetti e cose. C'era sempre una telefonata mia nei suoi confronti, viceversa. Cioè, sono rimasto molto, malgrado, diciamo, oltre il fatto calcistico sul piano umano. Il minimo che potevo fare oggi, vieni qui da lui, cioè, dai l'ultimo saluto. Se la direzione della panchina della Roma è stato forse il culmine della carriera di Mazzone allenatore, quella come calciatore, al contrario, non è particolarmente eccelsa. È spesa quasi totalmente al servizio dell'Ascoli, in Serie C, società alla quale approda nel 1960 per non lasciarla più fino alla fine della sua attività agonistica, 9 anni, 221 presenze e 11 gol dopo. Ma è proprio nella società dell'allora mitico presidente Costantino Rozzi che Carlo inizia la sua nuova carriera di allenatore, quella che gli darà le vere soddisfazioni. E lo stesso Rozzi, alla fine degli anni 60, ad affidargli la squadra. Lui, ancora giocatore e capitano, accetta il difficile doppio ruolo e se ne innamora. È la vera svolta della vita e della sua carriera. Io avevo bisogno anche di guadagnare, ero sposato con una ascolana, con 2 figli. Non sono stato un grande giocatore, io non ho avuto grandi guadagni e pertanto avevo bisogno di uno stipendio. E lui fu bravissimo perché mi chiamò e mi dette il settore giovanile dell'Ascoli, che chiaramente iniziava a essere il settore giovanile dell'Ascoli, perché effettivamente in precedenza non c'era stato moltissimo. E io iniziai a fare l'allenatore del settore giovanile. E ogni qualvolta c'erano dei risultati non brillantissimi, Costantino Rozzi mi chiamava e mi diceva: Carlo, senti, fammi un piacere, io devo scegliere un allenatore, adesso pensaci te per questa settimana e poi la prossima arriverà il nuovo allenatore e gli daremo questa squadra, però per domenica pensaci te. E è successo 2, 3, 4 volte, adesso non ricordo più di tanto. E io avevo o la fortuna o l'abilità e riuscivo a vincere sempre delle partite. Fino a quando un giorno lui mi chiamò a 7-8 partite alla fine del campionato, fece il nuovo esonero e mi disse: senti Carlè, ascoltami bene, allora le cose stanno così, finisci questo campionato e ti annuncio fin da adesso che il prossimo campionato tu sarai l'allenatore titolare dell'Ascoli. Il Carlo Mazzone allenatore scopre in se stesso qualità che forse nemmeno lui sa di avere. Il temperamento sanguigno, lo spirito di combattimento e la vissa agonistica coincidono perfettamente con il carattere del presidente Rozzi, costruttore ascolano di Giuno di Calcio, che rileva la squadra e ne diviene presidente con l'intento di rimanervi solo 6 mesi, il tempo di risanare il bilancio della società. Per l'Ascoli e per Mazzone è invece una svolta decisiva. Rozzi si appassiona di calcio e della squadra al punto non solo di restare, ma si spinge a dichiarare di voler portare in breve tempo i marchigiani fino alla Serie A. Ma risalire dalla Serie C è un'impresa molto ardua, da affidare a qualcuno che abbia carattere e forza, fame di vittorie. Nella stagione 1971-72, Mazzone, dismessi i panni del calciatore, può dedicarsi anima e corpo ad allenare la squadra con in testa un progetto preciso: conquistare per la prima volta la serie cadetta e poi tentare il colpo grosso fino alla massima serie. Affida la fascia di capitano al bomber Renato Campanini, detto faccia da gol, praticamente un coetaneo. La fiducia è ricambiata da Renato con 23 gol, il titolo di capocannoniere della C e la prima storica promozione dell'Ascoli Calcio. Ascoltiamo il ricordo di Roberto Benigni, attuale presidente dell'Ascoli e consuocero di Carlo Mazzone. Campanini dava delle emozioni fortissime, perché quando tu vedevi che lui non riusciva più a tirare in porta, invece la tirava in porta anche dal fondo campo e riusciva a fare gol. Era una cosa stupenda. Rozzi, Mazzone e Campanini entrano direttamente nella mitologia picena, ma la loro storia non finisce quella primavera. Nel giugno del 1974, al termine di un campionato mozzafiato, l'Ascoli, prima squadra marchigiana della storia, è promossa in Serie A assieme a Varese e Ternana. I protagonisti di quella storica avventura sono ragazzi che non conoscono le folle dei grandi stadi, provenienti da squadre di provincia. Giocano un calcio più di passione che di tecnica, ma ad Ascoli trovano un ambiente ideale e un allenatore che li plasma e li motiva come mai prima, accompagnati da un tifo incessante e tra i più appassionati del campionato. Ascoli sei grande e grande resterai, porterai la gioia nel cuore a tutti noi, lotteremo sempre con forza e volontà, vinceremo insieme le battaglie, poi sul campo i giocatori e sulla curva noi innalzeremo il coro. Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Nel 1974 al centro sportivo dell'Ascoli Calcio ci si allena duramente per non retrocedere nel primo campionato di Serie A disputato dai marchigiani nella loro storia. Con un buon girone di ritorno, la squadra guidata da Carlo Mazzone si salva piazzandosi 12esima. La salvezza ottenuta in qualità di matricola nella massima serie è certamente un grande successo per Carlo, cosa che gli attira l'interesse di squadre più blasonate. Nell'estate del 1975 Mazzone saluta la città e il presidente che lo hanno fatto emergere e accetta la corte della Fiorentina del presidente Ugolino Ugolini. È Firenze la città dove Mazzone incontra il primo dei grandi calciatori che avrà da allora in avanti il piacere di allenare. Il suo nome è Giancarlo Antognoni, ma nonostante sia tra i più importanti dell'Italia calcistica degli anni 70 e 80, non è tuttavia ancora quello decisivo per la nostra storia. Il futuro centrocampista della nazionale campione del mondo in Spagna, all'epoca solo ventenne, rappresenta un incontro davvero importante per Mazzone e ancor più per la Fiorentina. Ascoltiamo le sue recenti parole a ricordo di quegli anni. Ho avuto la fortuna a 18 anni di arrivare alla Fiorentina. Non ho vinto molto con la Fiorentina, però ho vinto l'affetto di Firenze che oggi mi premia, forse perché non ho mai tradito questa squadra. Oh, Fiorentina! Antognoni, idolo e bandiera dei Viola per quasi tutta la sua carriera, è solo il primo di una lunga lista di grandi giocatori di cui Carlo Mazzone si fa non solo maestro di tattiche calcistiche, ma anche un amico e col passare degli anni per alcuni una figura paterna. Nel 1993, dopo un lungo peregrinare tra panchine sparse in tutta Italia, tra cui Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, e un ritorno di 5 anni su quella di Ascoli, sua città d'elezione, il presidente Franco Sensi lo chiama alla guida della Roma Calcio. Per Carlo si corona il sogno di una vita. Anche questa volta l'incontro con un giovane calciatore è fondamentale per le sue fortune. Al termine di un allenamento con la prima squadra, nota infatti un ragazzino della primavera muoversi con grande disinvoltura in mezzo al campo. Non riesce a staccargli gli occhi di dosso, si informa di chi sia. Gli dicono Francesco, a 16 anni. Abbastanza, pensa Carlo, che lo aggrega alla prima squadra e lo fa esordire titolare contro la Sampdoria in Coppa Italia il 27 febbraio del 94. Il suo nome completo è Francesco Totti, ma ancora una volta non è quello decisivo per la nostra storia, anche se l'incontro con Carlo è importante, come ricorda Francesco con queste parole di affetto e riconoscenza. Due sono allenatori che mi hanno insegnato un po' tutto, diciamo, sia in campo che fuori. Il Mazzone quando ero giovane e Zeman quando ero in rampa di lancio, diciamo. E ancora oggi li ringrazio perché anche grazie a loro che sono arrivato fino a questo punto. Mazzone mi ha gestito nel migliore dei modi, anche perché ero giovane. E quando sei giovane, soprattutto in questo ambiente come Roma, è difficile rimanere a certi livelli. E lui, essendo romano, avendo la caparbietà, l'insegnamento come un padre, mi ha dato questo. Splendido incrocio di vite e destini, quello tra Carlo Mazzone e il futuro idolo dei romanisti, Francesco Totti. Eppure, anche se molto importante per entrambi, non ancora quello giusto nella nostra storia di oggi. Le tracce che seguiamo ci portano molto più lontano da Roma. 1500 km a ovest, in terra di Catalogna, un bambino è intento a dare i suoi primi calci a un pallone. Anche lui gioca spesso nella piazza della città, quella del municipio di San Padò, un piccolo comune a meno di 100 km da Barcellona. Solo la passione è la stessa. E i piedi del bambino paiono già fatati quando colpiscono la palla. Appartengono a un predestinato e il suo nome questa volta è davvero quello del nostro secondo protagonista. Josep Pep Guardiola. Josep Pep Guardiola. What I learn here that everything starts with the ball and finishes with the ball. Quello che ho imparato qui è che tutto inizia con un pallone e tutto finisce con un pallone. A volte ci scordiamo che questo gioco si fa 11 contro 11 con un pallone. E noi ci buttiamo in questa battaglia per un pallone, lo giochiamo, proviamo a fare qualsiasi cosa per questo pallone. Conta solo il pallone e fare gol. È questo che ho imparato a fare qui, fin da quando sono bambino. Non necessitava España esto, Guardiola. Va a cobrar Guardiola. Toma distancia. Atención. Atención, será el silbato del árbitro. Arranca Guardiola, dispara al arco. ¡Golazo! Carlo, detto Carletto, e Giuseppe, detto Pep, un giorno si incontreranno e influenzeranno le loro reciproche carriere. Ora, a metà degli anni 70, separati da più di 1000 chilometri e più di 30 anni di età, vivono l'uno l'inizio di una leggendaria carriera di allenatore, mentre l'altro impara i segreti di calciatore alla Masia, o meglio alla cantera del Barcellona, la squadra giovanile nella quale vengono formati i giovani giocatori blaugrana, e dove Guardiola muove i suoi primi passi di futuro campione. Noi qui ora abbiamo 9-10 giocatori che vanno a giocare una finale di Champions assieme a me. Siamo tutti qui da quando siamo bambini. Ed è un risultato che può certamente definirsi unico. Destini incrociati. A destini incrociati, un allenatore di origini romane, Carlo Mazzone, da ormai 30 anni, forgia calciatori e campioni, impartendo ordini e direttive tattiche dalle panchine di mezza Italia. Dopo aver tenuto a battesimo personaggi del calibro di Giancarlo Antognoni e Francesco Totti, o aver rivitalizzato campioni ritenuti bolliti o fuori ruolo quali Roberto Baggio e Andrea Pirlo, all'inizio del nuovo millennio sta per incontrare il catalano Josep Guardiola, il calciatore che più di ogni altro ne seguirà gli insegnamenti, fino a superare il maestro e avviarsi a una carriera era costellata di fantastici successi. Non ho mai pensato di poter giocare nel Barcellona quando ero un ragazzo. E mai ho pensato che un giorno avrei vinto la Champions League o che sarei diventato un allenatore e di vincere la Liga, di nuovo la Champions, e ora battermi ancora una volta con le squadre più importanti al mondo. Ogni sogno è diventato realtà. I sogni di Pep Guardiola hanno sempre avuto la fortunata caratteristica di realizzarsi molto presto nella sua vita. Fin da bambino, quando come ogni catalano doc che ami giocare al calcio, approda nelle giovanili del Barcellona. Ha solo 12 anni il talentino di Sampdò, ma già incanta per le sue doti tecniche e una maturità superiore alla media. È serio, metodico, introverso e taciturno fuori, ma già leader in mezzo al campo. È il 1990 quando Pep, non ancora compiuti 19 anni, è lanciato in prima squadra da Johan Cruyff, il leggendario campione olandese da un paio d'anni alla guida dei catalani. Il ruolo è quello di centrocampista centrale, posizione adatta a giocatori immaturi, ma che Guardiola interpreta fin da subito con sicurezza e determinazione. Da quel giorno diviene il direttore di orchestra di un memorabile Dream Team che vede alternarsi giocatori di livello mondiale quali Stoichkov, Koeman, Laudrup e Zubizarreta e con i quali il 20 maggio 1992 vince la sua prima Coppa dei Campioni. Ha segnalato il finale del partito, il Barcelona campeón d'Europa. El Barcelona campeón d'Europa, ahí tienen las felicitaciones entre los jugadores, los técnicos, el presidente. El Barcelona con el gol de Ronald Koeman en el minuto 6 del segundo tiempo de la prórroga. Vean cómo se ha abrazado a Johan Cruyff en el palco y en el terreno de juego, así como en el fondo donde están los azulgrana. Todos son parabienes, todos son felicitaciones. Un anno d'oro per Pep, il 1992, in tutti i sensi. Meno di tre mesi dopo la notte trionfale di Wembley, si mette al collo anche la medaglia di campione olimpico nella sua stessa Barcellona. Nella finale del Camp Nou, Guardiola guida i compagni della nazionale Under 21 nella partita vittoriosa contro la Polonia. Ma l'annus mirabilis non è ancora finito. In autunno, infatti, è convocato nella nazionale maggiore, di cui vestirà la maglia per altre 47 volte in carriera. Giuseppe ha compiuto 21 anni da qualche mese ed è già un veterano della gloria, un vincente, un predestinato. Secondo palo che la pide, io non so come, Guardiola, gol di Pep Guardiola! Mentre in Spagna un giovane campione vince tutto e corona ogni sogno di calciatore, negli stessi anni anche un allenatore romano vede realizzarsi il suo. Allenare la squadra della città nella quale è nato, cresciuto, per la quale ha giocato e che ama visceralmente. Nel 1993 Carlo Mazzone è alla guida della Roma Calcio, ma gli inizi sono tutt'altro che facili. In un ambiente abituato a volere tutto e subito, il suo primo anno si conclude con un deludente settimo posto. Le critiche non mancano, ma il presidente Sensi gli conferma la fiducia anche per l'anno successivo e l'appoggio dei tifosi che lo acclamano come uno di loro non viene mai a mancare. Grazie all'arrivo di campioni del calibro di Balbo e Fonseca, nonché alla definitiva esplosione di Francesco Totti, l'anno successivo Carlo e la Roma conquistano il quinto posto in classifica e l'accesso in Coppa UEFA. Stesso risultato raggiunto l'anno successivo, l'ultimo sulla panchina giallorossa per Mazzone. Io sono molto legato alla famiglia Sensi, è un altro presidente che gli devo tanto. Sensi mi ha dato la possibilità di allenare la Roma, solamente per come lo dico. Adesso mi può capire Ranieri, che un giorno a Ranieri gli dissi una frase importante: non andare in giro a dire che sei allenatore finché non hai salito i gradini dell'Olimpico. Carlo Mazzone e Pep Guardiola dalla seconda metà degli anni 90 stanno seguendo carriere parallele nel mondo del calcio. Mazzone, dopo aver coronato il sogno di sedersi sulla panchina della squadra del suo cuore e della sua città di origine, nel 1996 ricomincia il suo peregrinare per le panchine di mezza Italia. A volerlo, anno dopo anno, sono piazze importanti come Napoli, Bologna, Perugia, dove tuttavia non sempre riesce a imporre la sua filosofia calcistica. Ma è nel 2000 che una porta del destino si riapre inaspettata per condurlo più a nord di quanto non sia mai stato, così apparentemente lontano da come sono state fino ad allora la sua vita e la sua carriera. A volerlo fortemente è Luigi Gino Corioni, un coriaceo imprenditore bresciano da 10 anni presidente del Brescia Calcio che, tornato in Serie A, decide di aprire un nuovo ciclo affidandogli la squadra. Corioni conosce bene le capacità di Carletto nell'allevare giovani campioni e al Brescia non ne mancano. Uno su tutti, il fiore all'occhiello della cantera delle rondinelle, Andrea Pirlo, che ascoltiamo ricordare quei giorni. C'era il Baggio che giocava più avanti e Mazzone, prendendomi a gennaio, ha detto subito che voleva farmi giocare lì. È stata una sua intuizione, da lì è nato tutto. ma dopo l'intuizione di assumere Mazzone, il vero colpo di genio di Corioni è convincere Roberto Baggio a vestire la maglia bianco-azzurra, un grande campione, anche di umiltà, che accetta di giocare per quella che in gergo è una provinciale. E presto non sarà solo. Quando ho saputo che Peppe veniva al Brescia, avendolo ammirato per tantissimi anni appunto nel Barcellona, c'era appunto questa grande ammirazione nei suoi confronti, e che fosse parte del Brescia era veramente una cosa inaspettata, ma bellissima. Per me era come avere un fratello accanto, calcisticamente parlando, che ci capivamo al volo, sentivamo le stesse emozioni, le stesse cose, vedevamo il calcio alla stessa maniera. Andrea Pirlo, Roby Baggio. Agli occhi di Carlo Mazzone, come il cacio sui maccheroni, per consolarsi della nebbia del nord e la lontananza da casa. Ma la ciliegina sulla torta di quella che sarebbe stata una squadra irripetibile per i tifosi bresciani deve ancora arrivare in quella fatidica stagione del 2001. È un giocatore trentenne che ha già vinto molto, ma che è pronto a mettersi al servizio di una provinciale e agli ordini di un allenatore che non conosce, ma che stima. Si esprime solo in catalano, ma parla la lingua universale dei grandi campioni. 28 minuti al Meazza, 0-0, ma calcio di rigore per il Brescia, attenzione. Calcio di rigore per il Brescia, non è nel punto giusto il pallone, Rosetti richiama a sé Guardiola. Stiamo calmi, dice Carlo Mazzone in panchina, ripiazza la sfera Pep Guardiola. Forza ragazzi, Guardiola contro Toldo, attenzione. Parte la rincorsa di Guardiola, parte il tiro e gol. 28 minuti di gioco, in vantaggio il Brescia con Guardiola. Carlo Mazzone da Trastevere, detto Carletto, una vita seduto sulle panchine degli stadi italiani, si lustra gli occhi al Centro San Filippo, quartier generale delle Rondinelle, il nome che da sempre viene dato dai tifosi ai giocatori della squadra del Brescia Calcio. E se una rondine non fa primavera, due certamente sì. Roberto Baggio e Pep Guardiola, con l'umiltà che da sempre li contraddistingue, ascoltano le disposizioni tattiche del loro tecnico. Per lo spagnolo, da sempre convinto che un giorno avrebbe fatto l'allenatore, quello con l'uomo che ancora oggi considera il suo principale maestro, è un incontro decisivo. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini Incrociati. A Destini Incrociati, Carlo Mazzone, un trasteverino doc che ha dedicato la sua vita al calcio prima come giocatore e poi come allenatore, si trova a Brescia, all'alba di un nuovo millennio e con due nuovi giocatori da dirigere. Due gioie per gli occhi, due perle del calcio mondiale. Roberto Baggio lo conosce bene, lo ha incontrato spesso come avversario e ne stima la qualità di giocatore e uomo. L'altro, Pep Guardiola, è un campione spagnolo di Barcellona, introverso, molto serio e apparentemente con un carattere opposto a quello sanguigno del suo allenatore. Ma i due non tardano a trovare una grande intesa e Mazzone intuisce in quel trentenne intelligente e disponibile un futuro da grande allenatore. Ne sente la passione, la stessa sua, la medesima sensazione di sentirsi parte integrante degli uomini che allena, come un giocatore in più che tuttavia non può scendere in campo. Quando io sto nel vestuario, quando sono nello spogliatoio, la cosa che più invidio i miei giocatori è che non posso andare con loro nel tunnel, in quegli spazi dove si trovano prima dell'inizio della partita. Questi sono i momenti migliori per un giocatore e mi ricordano costantemente che io mi sento proprio come uno di loro. Quando si lavora con i giovani, vederli interagire un momento prima di entrare in campo nello spogliatoio ti fa capire che ormai sei cresciuto, sei diventato grande. Uno si dà conto in ese momento che sei hecho mayor. Guardiola il filosofo, così come con una punta di disprezzo è stato ribattezzato da Zlatan Ibrahimovic, giocatore con il quale Pep non ha mai legato, così lontano dal suo modo di vedere la vita e il calcio. Un filosofo quindi un pensatore, una rarità in un mondo spesso superficiale come quello del calcio mondiale. Ma anche un grande manager, capace di guidare uomini e gestire situazioni al pari di un capitano di industria. Pep te va sentero, scriveranno il giorno dell'addio di Pep a Barcellona. Integro, intatto, onesto, sincero. Qualcuno sibila anche troppo. Troppo bravo, troppo bello, troppo vincente. E così qualche nemico nel corso della vita e della carriera Guardiola se lo è fatto. Come l'attuale allenatore del Real Madrid, ovvero la squadra più odiata da qualunque catalano che si rispetti, il portoghese José Mourinho, che qui ascoltiamo in una recente conferenza stampa. Josep Guardiola è un entrenador fantastico de fútbol. Un entrenador fantastico del football, io ripeto, però ha ganato una Champions, Y a mí me daría vergüenza de ganarlo. Carlo Mazzone a Brescia insegna a Pep Guardiola ogni cosa del calcio italiano. Gli spiega i segreti del mestiere e lo consiglia con insistenza a intraprendere in futuro la carriera di allenatore. Ma Pep è già un allenatore in campo e, come dice lui stesso, quella di allenare è una decisione che ha già preso da tempo. Ma con Carlo impara che allenare non è solo insegnare schemi, predisporre tattiche. Significa soprattutto gestire ragazzini talentuosi, giovani uomini sulla via del successo o campioni già affermati. Significa parlare con loro, esserne talvolta padre, fratello, amico e al momento giusto un capo, un condottiero. Mi nombre es Gladiador. Nonostante un'infondata squalifica per doping di 4 mesi, accusa dalla quale verrà poi totalmente assolto, il primo anno a Brescia per Pep è positivo, al punto da valergli la chiamata della Roma per l'anno successivo. Ma io mi sento più bresciano che romano, avrà modo di dire un giorno Guardiola, ed è a Brescia che torna di nuovo dal maestro Mazzone. Quello con le rondinelle nel 2003 è l'ultimo campionato di Guardiola da professionista di alto livello. I successivi 3 anni passati tra Qatar e Messico non sono che l'ultima vetrina internazionale di un grande calciatore. Nel luglio del 2008, a soli 37 anni, diviene l'allenatore del Barcellona. Quando dichiara che il suo calcio si sarebbe ispirato a quello di Carlo Mazzone in Spagna, qualcuno lo guarda storto, ma lui ha le idee molto chiare. Ci mette solo un anno ad arrivare alla finale di Champions League e il cerchio del destino si chiude ancora una volta a Roma, dove si giocherà la super sfida tra Barcellona e Manchester United. Pochi giorni prima, ad Ascoli Piceno, la pace di casa Mazzone è interrotta da una telefonata. È Carlo a rispondere e al momento non ci crede. Il resto è la testimonianza di un'amicizia saldata da un debito d'affetto e riconoscenza che Dario Ricci, giornalista sportivo per Radio 24, si è fatto raccontare dallo stesso Mazzone nell'intervista che ascoltiamo. Stava a casa io e... era il pomeriggio invernale... Pronto, sono Mazzone, sì, chi è? Sono Peppe Guardiola, io Garibaldi, io dissi, poi ci sta battuta, perché? Perché ogni tanto qualche mio amico si diverte a fare qualche scherzo così per far trovare. Allora lui rimase un attimo, ci fu una pausa sua, mi si mise, guardi che sono veramente Peppe Guardiola, allora io... detto in una forma molto, molto serena, allora hai detto: oh Peppe, mi devi scusare perché ci sono degli amici che mi fanno gli scherzi, dimmi tutto Peppe, come stai, bello, e così entriamo nel vivo della telefonata. Io ti faci i complimenti, mister, guardi, io però adesso ti devo dire una cosa, dimmi Peppe, guardi che io ho telefonato a lei perché lei adesso mi deve fare un regalo. Ma dimmi Peppe, che ti posso fare io? Non lo so, dimmi. Lei deve essere presente alla partita. Beh, ma non va bene se io guarda, già se mi sono organizzato, io la vedo su Sky, in televisione, no? Io ti faccio il tifo da lontano, ma tu il tifo è solo per te. No, mister, lei deve venire, io devo sentire la sua presenza fisica all'Olimpico. Se lei viene, sono sicuro che noi vinciamo. Oddio mio, mo tu mi metti in difficoltà. Guarda, mister, ho già telefonato a Edo. Edo è un amico comune ed è segretario del Brescia Calcio, che è un carissimo amico suo e anche mio. Lui verrà a Roma a prendere i biglietti e poi tutte e due vi voglio in tribuna, dopo festeggiamo, dopo la partita, oddio, ho detto vabbè, ho capito, ma invece di pensare alla partita, tu ti metti a pensare a me, sì, io penso a lei. Pep pensa a Carlo nel giorno più importante della sua nuova vita da allenatore. Non dimentica gli amici, l'allenatore filosofo. Conosce il sentimento della riconoscenza, lo stesso che gli tributano commossi i suoi giocatori e i tifosi del Barça quando ai primi di maggio del 2012 annuncia che lascerà la squadra per prendersi un anno sabbatico, per allontanarsi dal roboante mondo del calcio ad alto livello. Dice che riposerà, leggerà, viaggerà e magari passerà a salutare vecchi amici in Italia, a Brescia, a Roma e senza dubbio ad Ascoli, per abbracciare un vecchio amico allenatore. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.